9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 6 di luglio. Oggi è Santa Maria Goretti, una santa, diciamo, cara a una certa iconografia dell'Italia casta del secondo dopoguerra. Altri tempi, bisogna dire, rispetto a quelli in cui viviamo. Altri tempi anche quelli in cui magari si scrivevano le manovre economiche e finanziarie con un po' più di cura. E anche oggi comincio col riferimento alla norma ieri caduta rovinosamente Profininvest. Ne abbiamo parlato rapidissimamente ieri mattina, dedicandoci anche a un altro tema, ma anche oggi faremo la stessa cosa, perché di rosi così si squipedali non vale la pena di occuparsene, se non che in pochi secondi, per sgombrarne il campo dicendo che l'ennesima schifezza, veramente autogol messa a segno da questo governo. Sembra quasi che lo facciano apposta a perdere verticalmente credibilità per dare una mano all'opposizione, per sgombrare il campo da se stessi prima possibile, o sicuramente per sgombrare il campo dall'ipotesi che gli italiani, che hanno una certa idea del senso dello Stato, di come si separi dagli interessi propri, possa essere distinta e distante da un governo che infila in maniera disomogenea una norma come quella in una manovra finanziaria e poi scritta in maniera da essere incostituzionale. Come al solito, è durata poche ore, ma la figuraccia l'hanno fatta. Ma detto questo, parliamo di un altro aspetto della manovra, un altro aspetto sul quale io avrei preferito norme diverse da quelle che sono comprese. Aspetto previdenziale, oggi ci occupiamo di questo. Io sono tra coloro che sostengono due semplici tesi di fondo. La prima: è vero che noi abbiamo fatto operazioni negli anni recenti utili e opportune di manutenzione della messa in atto della riforma Dini, con il passaggio dal retributivo al contributivo per la riforma previdenziale, e che questo ha, per così dire, messo in sicurezza le prospettive che la spesa in pensioni annua non toccasse punte fuori controllo, la cosiddetta stabilizzazione. Però non dimentichiamo che questa stabilizzazione avviene con una percentuale più vicina al 15% che al 14% del PIL annuo, che è superiore di quasi 3 punti, dice Eurostat, alla media dell'euroarea, e quindi è una stabilizzazione che resta molto onerosa. Naturalmente, di fronte all'azzeramento del deficit in 3 anni, che è l'obiettivo posto dalla manovra finanziaria, poiché tra il 2010 e il 2014 l'esborso annuo per lo Stato passa da 230 rotti miliardi nel 2010 a quasi 270, ancora una volta il settore della previdenza ha finito per rappresentare un obiettivo da cui recuperare saldi. Io ero tra coloro, però, seconda osservazione, che preferivano di gran lunga la versione originale della manovra, nella quale si anticipava dal 2013 l'applicazione dei parametri automatici che collegano i rendimenti all'attesa di vita, slittato di un anno al 2014, ma soprattutto si interveniva a perequare l'età pensionabile per le lavoratrici del settore privato a quei 65 anni che, per direttiva europea, noi abbiamo dovuto toccare prima e rapidamente per le lavoratrici del settore pubblico. C'era quindi una doppia ragione, secondo me, per farlo. La prima era equitativa e la seconda era anche, ovviamente, di risparmio. Invece nella manovra originale era previsto che questo innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici del settore privato cominciasse dal 2013 e entrasse a regime nel 2020. Invece poi in Consiglio dei Ministri è slittato di moltissimo questo aspetto, cioè inizia l'aumento dal 2020 con un mese all'anno, una cosa abbastanza ridicola, ed entra a regime nel 2032. Siamo sempre alle solite: i regimi di attuazione noi delle svolte li facciamo così diluiti che i loro effetti si perdono nel tempo. E allora, per sopperire ai mancati saldi di questo troppo diluito intervento, ecco che ci si è inventati una cosa sulla quale, terza osservazione, io la penso come il sindacato, a dirvi la verità, perché diminuire la perequazione al costo della vita, delle pensioni, quando si introduce un multiplo per cui tale diminuzione comincia da 3 volte la pensione minima fino a 5, dove si ferma definitivamente la perequazione, pensando che 3 volte siamo a 1.400 euro lordi al mese, non possiamo davvero dire che quei 1.400 euro lordi al mese configurino italiani appartenenti a quel meno dell'1% che dichiara più di 100.000 euro l'anno alle tasse. Non è così, stiamo parlando di ceto medio e medio basso. La mia opinione è che diluire troppo gli interventi sistemici per colpire invece un reddito disponibile già scarso degli italiani, quando abbiamo già un problema di domanda interna così bassa, sia, terza mia finale osservazione, un errore. Quindi io dichiaro di essere un critico esplicito della manovra. Ma quando poi si è toccato di fare un'altra osservazione, un amico, come sempre prezioso, è corso in sostegno, perché mi ha mandato una mail qualche giorno fa e mi ha fatto fare un'osservazione che veramente mi ha fatto arrabbiare un po', perché i numeri parlano da soli. Io comincerei da lui, come al solito. È collegato con noi Tobias Piller, che è il corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, e Tobias Piller mi ha mandato qualche giorno fa una mail da cui lo pregherei di cominciare, perché semplicemente dice: come funziona da voi in Italia il prelievo contributivo obbligatorio e come funziona da noi in Germania? Sentite i numeri che fa e poi riflettete. Buongiorno Tobias. Buongiorno. Come funziona da voi? Ricordo che da noi la parte obbligatoria contributiva previdenziale è un 9,8% a carico del lavoratore, a cui si somma un 32,8% a carico dell'impresa, quindi sommati andiamo quasi al 43% sul lordo obbligatorio per la previdenza. Poi si arriva oltre il 50% con la parte contributiva obbligatoria per fini diversi da quelli previdenziali. Invece in Germania? In Germania è così, che c'è da un lato un contributo massimo per la pensione, e questo è al momento 550 euro al mese per il lavoratore, e lo stesso 550 euro al datore di lavoro. Così chi guadagna più di 5.500 euro al mese non deve pagare poi altri contributi se guadagna un euro in più. Ma il punto è quello che certamente c'è anche più o meno una pensione massima, perché chi va in pensione può calcolare banalmente quanto avrà. Il calcolo è presto fatto per ogni anno di contributo massimo. Scusi, se uno ha fatto sempre contributi massimi per tutta la sua vita lavorativa, per ogni anno di questo contributo al momento prende 50 euro di pensione. Chi ha lavorato così, diciamo, 45 anni deve aspettarsi al momento una pensione di 2.200 euro e basta, e questo è tutto. Ho capito, ma questo è tutto con un prelievo contributivo che è 10% a carico del lavoratore, 10% a carico dell'impresa, ecco, non 42% totale come in Italia. In Germania certamente si pagano poi altri contributi, tipo 13, 14 o 15% dipende alla assicurazione per la salute, poi 4% per l'assicurazione di disoccupazione e poi qualcos'altro. Comunque in Germania c'è il dibattito sul fatto quanto valgono tutti i contributi insieme, perché si considera che questi contributi insieme sono un qualcosa che si può anche chiamare una tassa sul posto di lavoro. E se questa tassa sul posto di lavoro è molto alta, certamente ci sono meno posti di lavoro. Si è lavorato in quel senso per abbassare questa tassa di lavoro e di tenerla sempre possibilmente sotto il livello di 40% nel suo insieme. E questo non è solo questa cosa teoretica del cuneo fiscale, che è sempre valido il concetto, ma lo voglio chiamare, semplificando, una tassa sul posto di lavoro. Ecco, una tassa sul posto di lavoro. Allora, abbiamo due altri ospiti, abbiamo Luigi Angeletti, il segretario della UIL. Buongiorno Angeletti. Buongiorno a lei. E Giuliano Cazzola, parlamentare PD da sempre sulle questioni del lavoro, esponente di un riformismo che apprezzo da moltissimi anni. Buongiorno a Cazzola. Buongiorno, grazie. Allora, Angeletti, il senso di diluire l'intervento per l'innalzamento dell'età pensionabile femminile e di mettere mano invece alla frenata della traduzione dell'aumento del costo della vita in pensioni medie e medio-basse, che senso ha per voi? Zero. Peraltro rispondono a due problemi completamente diversi. Da una parte c'è il problema di rendere stabile il nostro sistema previdenziale nel lungo periodo, cioè che i contributi che i lavoratori e le imprese versano siano sufficienti per pagare le pensioni. Dall'altra c'è una banale operazione per fare cassa, esattamente il contrario di quello che avevano detto: non faremo cassa sulle pensioni. E invece la riduzione del grado di copertura per quella fascia di pensioni fino a 2.300 euro è semplicemente per fare cassa, che invece si potrebbe fare benissimo e in maniera più decente da un punto di vista morale, politico e finanziario, facendo una sola cosa: anticipando la norma che prevede di aumentare la tassa fino a livelli europei sulle transazioni finanziarie, che butta addirittura un po' di più di quanto si pensa di guadagnare riducendo le pensioni. Mi permetto di dire una cosa sulla sua introduzione. Bisogna fare trasparenza. In Italia le pensioni sono un mischiate con l'assistenza. Ed è violando quell'altro pure una legge dello Stato che non viene applicata. Negli altri paesi europei i costi di assistenza sociale sono separati da quelli della previdenza sociale. Noi li sommiamo. E questo non è per nulla giusto, perché l'assistenza sociale non deve essere finanziata con i contributi delle imprese e dei lavoratori, l'assistenza sociale deve essere finanziata con le tasse di tutti i cittadini. E questo contribuisce chiaramente sulle cifre della spesa annuale del peso sul PIL a fare meno chiarezza. Questa è da sempre una delle posizioni. Il ministro Tremonti ci dice che con la delega fiscale, la cui attuazione, mio giudizio, si perde un po' in un futuro imprecisabile, comunque per le troppe centinaia di regimi di deroga all'aliquote, cioè di deduzione e di detrazione, in cui si mischiano ancora una volta i due aspetti, il ministro Tremonti dice proprio riordinando le deduzioni e le detrazioni noi separeremo meglio quello che adesso Angeletti ci ha detto, cioè la confusione tra assistenza e previdenza. Vedremo, però intanto il fatto sta che ancora una volta, secondo me, il centrodestra, io sono d'accordo con Angeletti, non ho capito perché scivola sul contrario di ciò che promette ogni volta. Oltretutto io non credo e non so se questa misura resterà al vaglio del Parlamento. Chiedo a Giuliano Cazzola, si sente di difenderla, qual è la ratio? Ma guardi, io questa misura l'ho criticata, io sono d'accordo con le considerazioni che faceva lei, nel senso che mi piaceva molto di più la norma sulle lavoratrici che c'era nella prima stesura, e trovo, io l'ho criticata per iscritto, l'ho criticata in interviste, la critico stamattina, trovo singolare questo taglio che viene fatto a pensioni che sono dottone, non sono sicuramente pensioni d'oro. Peraltro io credo che, e qui ripeto cose che ha detto Schifani, cose che ha detto ieri anche Sacconi, ci può essere un riequilibrio anche nel chiedere un contributo alle pensioni, nel senso che si tratta di risparmiare le fasce più basse, magari chiedere un contributo di solidarietà alle fasce più elevate, alla volta, non so, di 8 volte, 10 volte l'integrazione al minimo. Faccio una precisazione qui, fino a 2.300 euro c'è una copertura prima del 100%, poi del 45%, e sulla la parte eccedente i 2.300 euro che non c'è più copertura per 2 anni. E poi devo fare anche alcune altre precisazioni, se mi consente. Innanzitutto devo dire che l'aliquota pensionistica da noi è il 33%, poi ci sono le altre, però l'aliquota pensionistica divisa grosso modo 24,9. Se si ha ragione. Poi l'altra cosa è che la spesa cifrata dall'Istat alcune settimane or sono è il 16,7% nel 2009, Perché? Per un banale elemento che è il crollo del PIL. Quindi, essendo crollato il denominatore nel 2009, ed essendo cresciuto naturalmente il numeratore, noi abbiamo che il picco di spesa che si attendeva nel 2035 ce l'abbiamo avuto nel 2009 e nel 2010. E poi l'altra cosa, io so benissimo, questo è un pallino della UIL, ma la spesa pensionistica è la stessa, in tutti i paesi si conta la spesa a seconda di come la si finanzia, sia che se la finanzia i contributi, sia che se la finanzia col fisco. Quindi non è che noi possiamo neutralizzare la spesa pensionistica finanziata dal fisco, perché l'intreccio è un intreccio reale. Insomma, lo Stato trasferisce all'INPS tutti gli anni 80-85 miliardi di risorse prese dal fisco. Una trentina, forse anche di più, di miliardi riguardano oneri pensionistici che lo Stato sostiene. Integrazione al minimo, pensioni, pensionamenti anticipati, pensioni sociali, e quindi diventa difficile dire che quello che è finanziato dal fisco non conta. La spesa pensionistica è spesa pensionistica a prescindere da come la si finanzia, e quindi noi non siamo neanche tranquilli nel dire che il sistema è sostenibile. Io tra l'altro, se vuole, proprio come dice lei, no, io trovo anche abbastanza singolare che il governo di centrodestra si sia messo a difendere il sistema pensionistico come farebbe un governo di centrosinistra, che la principale preoccupazione del ministro dell'economia, del ministro del lavoro e del presidente dell'INPS sia quello di mandare segnali rassicuranti, quando in realtà per esempio del bilancio dell'INPS si conosce molto poco. Quindi io sono assolutamente d'accordo. Che risposta ci diamo però? Perché poi è singolare, perché io vivo da questo microfono una realtà per cui... No, ma le spiego. Da una parte... Sarà trasformata. Ah, ecco, anche lei come me. Però che cos'è che spinge il governo poi a fare una cosa sistemica così diluita, invece a fare interventi di questo tipo subito, che poi non reggono al Parlamento e sicuramente creano solo impopolarità, sfiducia, delusione? Lo dico perché la singolarità è... Che vivo anch'io oramai, molto in piccolo, perché non faccio né farò politica, però oramai gli ascoltatori di centrodestra si irritano terribilmente di un'impostazione come questa, dicendo: vabbè, ma cosa vi mettete anche voi a criticare Tremonti? No, io sto semplicemente dicendo che per un esercizio di ragionevolezza e di libertà mentale io mi riservo di adottare nei confronti di tutti lo stesso criterio, e quindi se c'è una cosa in materia di pensioni che non mi convince, perché c'è una cosa sistemica che voglio che non c'è, e c'è una cosa invece random, di cui non capisco tra l'altro né le ragioni equitative né le ragioni che ovviamente non reggerà nemmeno politicamente e crea problemi a centrodestra, ritengo obbligatorio dirlo. La difficoltà però, che è la difficoltà anche nel fare la domanda e nel dare una risposta da parte sua, è: perché ci casca il centrodestra? Cioè, qual è la logica davvero che spinge a un comportamento politico di questo genere? Cazzola, lei lo critica, ma per aiutarci a capire che cos'è che succede? Un cortocircuito mentale? Non riesco a capire. Ma guardi, io, diciamo, c'è una posizione chiara, espressa più volte dal Ministro del Lavoro, che è contrario all'aumento dell'età pensionabile delle donne, perché a questo sono contrari le organizzazioni sindacali amiche, diciamo, no? CISL e UIL. E oltre a convinzioni, cioè, non è facile, non è, cioè, che col mercato del lavoro italiano, non è facile, soprattutto in una crisi come questa, aumentare l'età pensionabile delle donne. Però io posso dire questo, che se noi parliamo con un cittadino, un dirigente politico europeo o con le posizioni ufficiali dell'Europa, questi ci dicono che mandare in pensione le donne prima è una discriminazione. Noi in Italia abbiamo una cultura invece che considera un diritto inalienabile. Io un mese fa ho incontrato, sono venuti a trovarci una delegazione di cinesi, del Parlamento cinese, e il presidente della commissione ci ha detto: noi purtroppo parlavamo dell'occupazione femminile, abbiamo una grave discriminazione nei confronti delle donne, ci scusiamo per questo, però non siamo ancora riusciti a correggere, vanno in pensione 5 anni prima degli uomini. E noi invece pensiamo che le donne, per quello che hanno sofferto, tutte considerazioni giuste, no? Devono andare in pensione prima, quando le donne hanno bisogno magari di tutele durante la vita lavorativa e non quando sostanzialmente hanno finito. No, e poi soprattutto quando l'abbiamo innalzato per il settore pubblico, non capisco perché non farlo anche per il settore privato. Cosa vuole che le dica io? Ah, ecco, come si vede la difficoltà tra persone ragionevoli descrive un orizzonte che evidentemente produce poi nell'elettorato le conseguenze che produce, perché è difficile tra persone ragionevoli trovare adeguate risposte a una manovra che su questi aspetti sociali, laddove il portafoglio non è gonfio, insomma, ha molti esempi di qualche cosa che si era detto non si sarebbe ripetuto, invece si ripete. Io personalmente sono tra gli ipercritici, per esempio, di come è stata congegnata una norma sul conto depositi, che su moltissimi miei clienti, ho messo anche portafogli, ha un effetto terribile, perché stiamo parlando di medi risparmiatori, anche qui vista la consistenza patrimoniale elevata, grazie al cielo, e lo abbiamo sempre difeso dicendo che gli italiani fanno bene ad aver risparmiato molto, la somma, l'effetto di queste somme sui conti deposito titoli scoraggeranno gli italiani, il contrario di quello che doveva avvenire, a investire a lungo termine in equity, in strumenti finanziari nel mercato, invoglieranno tutti a mettere solo i soldi sui conti bancari, e l'esatto opposto di quello che serve. E oltretutto è anche l'entità patrimoniale di questo prelievo è molto discutibile, perché con i rendimenti attuali che offrono le borse, purtroppo portarsi a casa migliaia di euro, che sono la somma di 3-4 conti deposito titoli, gli italiani lo fanno in banche diverse abitualmente, è impensabile con i rendimenti attuali. Quindi io, ecco, per esempio, quella è un'altra misura di cui non comprendo né l'effetto sistemico né l'effetto disincentivo dall'investimento sui mercati finanziari, non la capisco proprio, mi sembra semplicemente una mini patrimoniale senza senso, tranne quello di dare una mano alle banche. Questo lo posso capire, nobile risultato, a costo un po' elevato, però sulle spalle di risparmiatori che ancora una volta dovrebbero identificare, poi per il centrodestra, se mi posso permettere, un tipo di elettorato più vicino a quello che ci si aspetta, magari sbagliando, che voti per il centrodestra che per il centrosinistra, magari sbagliando. Però quello che mi sorprende è che queste considerazioni, quando poi si mette mano alle norme, spariscono del tutto. Eccoci qua, il contributo che il freno alla revalutazione delle pensioni di cui stiamo parlando oggi garantirà ai risparmi in vista dell'azzeramento del deficit pubblico da realizzare nel 2014. Questo contributo è di 2,7 miliardi, perdonatemi, negli anni 2012-2014. Stiamo parlando di un effetto finanziario che è scaglionato, secondo le indicazioni del governo, in 600 milioni nel 2012, 1,90 miliardi di euro nel 2013, un altro 1,90 miliardi di euro nel 2014. E la rivalutazione, lo ripeto per chi non l'avesse capito, sarà al 100% per gli assegni fino a 3 volte il trattamento minimo dell'INPS, cioè fino a 1430 più o meno euro mensili. Poi invece scende la rivalutazione al 45% per la fascia da 3 a 5 volte il minimo, e quindi tra i 1430 euro e i 2380, per poi azzerarsi, nessuna rivalutazione all'andamento del costo dell'avvito sopra i 2380 euro mensili. 2,7 miliardi. Ora, sapete qual è la cifra sulla diminuzione dei costi della politica invece negli stessi anni, dopo che i costi della politica sono spariti e abbiamo fatto la commissione presieduta dal presidente dell'Istat, che ci dovrà indicare come metterli in linea con le medie europee? 7,6 milioni di euro. 2,7 miliardi i tagli alle pensioni, 7,6 milioni i costi alla politica. Io mi interrogo su cosa passi per la zucca dei capi del centrodestra, perché 2,7 miliardi e 7,6 milioni, anche le persone più ragionevoli che sanno benissimo come dai costi della politica non viene naturalmente la soluzione al problema dell'azzeramento del deficit, ma è una questione di elementare buonsenso capire che non si può continuare a dire 2,7 miliardi dalle tasche dei lavoratori di livello di reddito medio e basso e poi costi della politica 7,6 milioni. Oh. Allora, Tobias Piller, in Germania la stabilizzazione negli anni delle riforme dalla fine degli anni 90 agli inizi degli anni 2000 in Germania della spesa previdenziale ha comportato che cosa? Con quali schieramenti sociali, con quali convergenze? Certamente in Germania si è pensato anche di frenare un po' la dinamica dei salari per diventare di nuovo competitivi sul mercato internazionale, e anche i pensionati hanno partecipato in questo in modo indiretto, perché in Germania, e devo premettere, non è tutto bello in Germania, ma comunque se volete prenderlo questa volta come punto di riferimento, sono qui a raccontarvelo. E in Germania, in quel senso, le pensioni sono legate non all'inflazione, ma allo sviluppo dei redditi lordi. Poi ultimamente si è pure tolto da questo un altro fattore demografico, un fattore stabilizzativo. Così in quel senso le pensioni si sviluppano un po' meno veloce di quanto si sviluppano i salari lordi. Se i salari lordi, se non ci sono aumenti di salario, perché anche i sindacati sono a favore di essere modesti con gli aumenti di salario e pur di proteggere i posti di lavoro, non ci sono neanche aumenti delle pensioni. E questo, tutto questo avrebbe portato pure a una diminuzione delle pensioni nel 2004. Si è deciso poi di soprassedere a questo e invece di fare una diminuzione, di avere un aumento zero per tre anni, 2004, 2005, 2006. Anche nell'anno dopo la crisi del 2009 si è visto questo fattore, che lo sviluppo dei redditi lordi si è fermato nel 2009, ecco nel 2010 aumento zero delle pensioni. Ora, voi capite che è un paese in cui l'adeguamento dell'assegno previdenziale è al salario lordo ed è quindi direttamente collegato a un andamento della produttività, perché è chiaro che quando le cose andranno male capiterà che l'adeguamento è zero, come ha ricordato adesso Pinder. Quando poi le cose vanno bene e tira la produttività e naturalmente... applicato al caso italiano, in cui abbiamo introdotto il salario detassato con la modifica delle relazioni industriali, il salario lordo cresce per la componente soprattutto della produttività che tira, a quel punto si premiano anche le pensioni. È interessante questo meccanismo perché ovviamente per i sindacati impegnarsi a quel punto più ventre a terra per l'aumento della produttività, per far andare meglio le cose, far aumentare il reddito lordo e il reddito disponibile per i consumi dei lavoratori e contemporaneamente collegare a questo la rivalutazione degli assegni previdenziali, è una bella rivoluzione mentale. Angeletti che ne direbbe? Sarebbe favorevole a un meccanismo di adeguamento del potere d'acquisto delle pensioni fatto come indicatore di produttività sul salario lordo? Ah, sicuramente, peccato che i nostri parlamenti, non parlo di questo e neanche di quello precedente, hanno cambiato la regola che una volta c'era anche da noi, ma mi permette di fare una considerazione sulla questione dei costi della politica, perché ci sono delle cose che non generiche ma precise che si potrebbero fare, anzi che si dovranno fare. Una è che il Parlamento, nella sua autonomia, decida di ridurre i suoi costi del 30%, visto e così la linea a quello che succede in Europa. Seconda questione, non c'è bisogno di fare tante commissioni per sapere quali sono i costi della politica o delle cariche politiche in Europa. Credo che in 15 giorni si potrebbe benissimo fare e se ci sia bisogno noi siamo in grado di dargli una consulenza. Esatto. Terza questione, una delle cose fondamentali, che questa non è solo un aspetto estetico, diciamo così, o politico, ma è sostanziale, bisogna varare una norma che obblighi all'associazione di tutte le aziende pubbliche nei comuni con meno di 50.000 abitanti. Vedrà che effetti avrà sui costi, sull'efficienza e sulla riduzione dei cosiddetti costi della politica. Poi mi chiedo una cosa, tutta politica, cambio un po' invado un campo, non è che come tutte le attività umane il genio è obbligatorio in politica, ci sono anche quelli che fanno degli errori. Direi di sì. Come dire, e mi sembra, ho tanto la sensazione che l'attuale maggioranza comincia ad avere un meccanismo interno che assomiglia molto a quello dell'Unione. Beh sì, cioè un tasso di autoproduzione di errori che diventa simile o comunque asintoticamente vicino all'autoribaltamento, ecco, per così dire. Lei non lo dice esplicitamente, ma io traduco per chi è a casa, per così dire. Poi molti chiedono se le cifre che ho fatto prima sulle coperture sono all'ordo al letto. No, sono all'ordo naturalmente, quindi verrete colpiti, ecco, non sono al netto, magari fossero al netto. Sentiamo qualche telefonata che facciamo poi commentare a Giuliano Cazzole. Cominciamo con Anselmo che chiama da Mantova. Prego Anselmo, ci dica. Sì, allora io sono un esperto in previdenza, ho lavorato all'INPS 30 anni. La mia proposta è questa: applicare la vecchia tassa della salute 0,80-1% su tutte le pensioni da 2.000 euro in su, visto che poi i pensionati sono quelli che hanno più bisogno di interventi sanitari, e si semplificherebbe tutto, probabilmente nessuno avrebbe nulla da ridire e sarebbe forse introiterebbe anche di più lo Stato. Questa è la mia idea. C'è un aspetto equitativo però, ci sono sentenze della Corte in materia, poi sentiamo cosa ci dice Cazzola. Comunque l'idea di Anselmo è una proposta netta, chiara. Ida da Torino, prego Ida. Buongiorno, io sono una pensionata silente, cioè nel 92 Amato ha fatto una legge che ci sarebbe stato il cumulo, quando io sarei andata in pensione e molte altre come me, con il marito. Se il marito superava anche solo di un centesimo quella cifra, io non avrei più percepito praticamente la pensione. Difatti, quando sono andata in pensione 5 anni fa, ho iniziato a prendere 78 euro al mese dopo aver versato 18 anni e io avrei dovuto prendere la minima perché ero consapevole, perché sono stata a casa per guardarmi la bambina. Poi la ciliegina proprio sulla torta l'ha fatto un altro bel governo, Prodi, che ha messo praticamente un tetto sulla mia pensione, che se io supero i 2.380 euro annui, dico annui, io non sarei più stata a carico di mio marito. In questi anni sono riuscita a raggiungere e a superare di 2 euro mensili questa cifra e io non sono più a carico di mio marito. Poi anche le detrazioni sui medicinali non li prendo, scarico praticamente niente. E insomma, io dico una cosa: tutti questi signori che pensano e fanno queste leggi, per quale motivo loro invece hanno 3-4 pensioni da 15, 20, 30 mila euro cada una? Per quale motivo non si tolgono e non c'è un cumulo anche per loro? Anziché prendere 3 o 4 pensioni, gliene fanno una adeguata agli anni che hanno lavorato, anche se hanno versato. Ecco, c'è Scalfaro che quello poi colpisce tutti per un giorno o due da magistrato o da avvocato, insomma, percepisce la pensione su quella cosa lì. Allora, ecco. Ida, io non l'ho interrotta perché effettivamente era accorata la sua voce, e qua è chiaro che quando si è bersagli di più provvedimenti, come nel suo caso, le domande gridano, quindi l'ho fatta parlare fino alla fine. Abbiamo l'interruzione, il minuto dedicato alle informazioni sul traffico, e poi prendiamo direttamente da Giuliano Cazzola, che trae spunto da queste telefonate. Allora Cazzola, che dice della proposta dell'ex dipendente INPS di ripristinare la tassa sulla sanità sui pensionati? Ma in questo modo i pensionati pagherebbero 2 volte il Servizio Sanitario Nazionale, perché lo pagherebbero con le tasse che pagano regolarmente in base al loro reddito, e lo pagherebbero poi con questa contribuzione in più. Diciamo, una cosa ragionevole potrebbe essere quella di introdurre un sistema di ticket, anche questo equo, perché noi siamo usciti dai ticket diciamo dopo che avevamo trovato una stabilizzazione negli anni 90, ovviamente tenendo conto delle patologie, tenendo conto dell'età, tenendo conto del reddito, ma diciamo finanziare con due misure diverse l'assistenza sanitaria non mi sembra una cosa corretta. Quanto invece alla questione della signora, purtroppo lei ha ragione, nel senso che le cose stanno così, che per avere il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, tra cui anche l'integrazione all'INPS, si guarda anche il reddito del marito. Io mi rendo conto che se si volesse intervenire in questa misura, però insomma c'è una regola generale per le prestazioni assistenziali dove si guarda anche il reddito della coppia. A lei vi è stata liquidata solo la pensione a calcolo, che purtroppo le ha riconosciuto solo 78 euro. Io però, se mi permette, visto che lei è sempre molto attento, vorrei segnalare un'altra cosa che a me pare molto singolare in questa manovra, quella della cosiddetta norma antibadanti. Come no. E l'hanno venduto come norma antibadanti, per cui colpiscono la fantasia dei cittadini che pensano alla prosperosa Ucraina che seduce il nonno che le viene affidato e si fa sposare. In realtà questa è una norma che vale anche per gli italiani. Perché è così, perché non può non essere che così, no? Per cui un signore di 70 anni, compus sui, no? Come si direbbe, ancora padrone di se stesso, che è vedovo o divorziato, che sposa una vicina di casa che ha 20 anni meno di lui, deve essere sicuro di campare almeno altri 10 anni, perché ogni anno di matrimonio è meno dei 10, la pensione di reversibilità che lascerebbe la vedova giovinotta, diciamolo, verrebbe tagliata del 10%. Io sinceramente mi domando se questa non sia una norma fatta contro Berlusconi, perché è il classico caso che colpirebbe anche il Presidente del Consiglio. Ah, una legge ad personam contro Berlusconi. Al contrario? Beh, io veramente, cioè noi arriviamo a instillare questo odio, questa invidia rispetto al che peraltro noi fidiamo alle badanti i nostri anziani, no? Per cui, non so, è anche... perché ci deve essere una presunzione di raggiro in ogni cinquantenne che sposa una persona più vecchia di lui, e una presunzione di rincoglionimento in ogni ultrasettantenne che sposa una donna che ha 20 anni meno di lui? Questo è un tema, da una parte legato all'elevata conflittualità che in questo anno si è diffusa nelle famiglie italiane, a nord come al sud, ma che poi singolarmente trova nella Lega, a quel che si dice in Parlamento, un sostegno più forte che in altri partiti. No, ma è una norma che ha voluto la Lega, perché aveva presentato una legge analoga in Commissione Lavoro, che era rimasta bloccata, eravamo riusciti a bloccarla da 6 mesi, no? Il problema è che c'è una storia lunga di leggi di questo tipo che hanno tutte avuto una sanzione da parte della Corte Costituzionale, insomma. E quindi ancora una volta è una norma che serve per dare un segnale politico di consenso, che non reggerà, questo mi sembra. Sì. Che ne pensa Cazzola dell'ipotesi di agganciare l'adeguamento, guardi, dell'assegno al salario? Sarebbe l'unica strada per dare una rivalutazione vera. Noi l'avevamo fino al 92, nel 92 l'abbiamo abolita la riforma Amato. Però io dico anche una cosa, spero di cavarmene in 4 parole. Allora, in mancanza delle riforme, nel 2035 la spesa pensionistica sarebbe arrivata al 23% del PIL. Con le riforme, prima del disastro del PIL di cui parlavamo prima, nel 2035 la spesa pensionistica sarebbe al 16-17%. Il differenziale sono 7 punti, no? Sì. 5 di questi 7 punti, 5 punti di PIL, vengono risparmiati per la modifica della rivalutazione economica derivante appunto dall'abolizione che è fatta nel 1992, per cui sostanzialmente è ripristinare quella norma, peraltro giusta, perché sarebbe l'unico modo per rivalutare delle pensioni, in qualche modo vanificherebbe i 2/3 delle manovre di risanamento. Un'ultima cosa, nel sistema contributivo anche noi abbiamo un tetto, Noi paghiamo contributi fino a 85.000 euro l'anno, Sì. Quindi abbiamo introdotto anche noi, come la Germania, un tetto massimo, un massimale di contribuzione. Però naturalmente che i 5 punti, quindi... Le parte... pagano i pensionati 5 punti. Hai capito? Esatto, questo voglio dire, che i 5 punti su 7,5 di stabilizzazione, la bellezza di 75 miliardi di euro, insomma, al PIL attuale, e meno potere d'acquisto e meno consumo interno, e le pagano i pensionati, fa pensare sul meccanismo di stabilizzazione di questo intervento. Sì, anche perché se noi avremo un'esplosione degli anziani, no? Diventerà molto difficile, poiché se avremo, non so, gli anziani che diventeranno il 30% della popolazione, diventerà difficile accontentarli col 15% del PIL. Diventerà impossibile, questa è la mia... previsione, e quindi ancora una volta gli interventi di questo tipo, come in questa manovra, mi fanno pensare che la politica è poco attenta a cambiare, a non pensare al medio-lungo periodo, perché oramai non è neanche più lungo, è proprio medio periodo. Questa trasformazione del peso demografico degli anziani la conosciamo, la descriviamo da anni, è in atto, non ci sono segnali di demografia tanto forti da farci pensare che cambi, e a quel punto quindi se di 7,5 punti di PIL di risparmio dal complesso degli interventi da Amato e Dini, noi 5 punti dipendono da questo, esatto, e tutti gli altri, però i 2/3 dipendono da questa voce, che significa meno potere d'acquisto per 75 miliardi di euro oggi netto. Questo secondo me dovrebbe fare riflettere sul fatto che bisogna mettere mano ad altri interventi sistemici, ma levare il piede, da come purtroppo invece si è fatto ancora una volta, dalla cosa degli adeguamenti del potere d'acquisto della pensione. Abbiamo tentato di spiegarvi una cosa che obiettivamente è un po' noiosa, un po' tecnica, però milioni e milioni di italiani, decine di milioni di italiani vivono nell'orizzonte del trattamento previdenziale dopo una vita di duro lavoro, altri milioni di italiani vivono la prospettiva di non pagare abbastanza contributi, non avere durata continuativa al lavoro per potersela maturare la pensione. Questa è la realtà della vita della stragrande maggioranza del nostro paese. Io penso che destra, sinistra, comunque la si pensi, guardare a ciò che hanno fatto gli altri paesi che hanno stabilizzato in maniera diversa da noi questa componente fondamentale della vita economica nazionale serva, e soprattutto che se la politica vuole fare interventi su cui di questo genere, o come quello sul conto depositi di cui vi parlerà a mezzogiorno nel Salvadanaio la nostra mitica Deborah Rosciani, abbiano però il pudore di non mettere 7,6 milioni dai costi della politica e di non fare commissioni su questo, perché altrimenti io credo che la reazione della gente dovrebbe essere molto molto molto più dura di quanto non sia stata composta fino a questo momento. Grazie a Tobias Piller della FAZ, grazie a Luigi Angeletti, leader della UIL, grazie a Giuliano Cazzola, grazie a voi tutti, linea al giornale radio, appuntamento a domani.